Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano di apertura, ovvero sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine, ovviamente in diretta anche oggi 29 maggio 2025. Ricordo che il programma funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Andiamo ora all'ascolto di questa, di una band francese, una band che si è formata circa 15 anni fa, e dal loro primo album datato 2012 ci ascoltiamo dei brani. Loro sono di Strasburgo in Francia, quindi stiamo parlando dei Geranium, che presumo sia una band che esiste tuttora, anche se il loro ultimo album è datato 2018. Comunque ci ascoltiamo i Geranium. Sì, buonasera anche da parte mia a tutte e a tutti. Zernis Magnetics, oggi è giovedì 29 maggio. E allora siamo qua in diretta. Stasera così dedicheremo, ci sarà una trasmissione per quanto riguarda gli interventi così a voce, sarà una trasmissione un po', diciamo, monotematica, anche se con varie così diramazioni. Allora partiamo da, praticamente siamo partiti da due letture: la lettura dello scritto Un tuono contro il genocidio, parole di Elias Rodriguez, e l'uomo che il 21 maggio scorso ha aperto il fuoco a Washington contro due funzionari dell'ambasciata israeliana, uccidendoli, e per insomma si è così ha esplicitato il suo gesto come un gesto contro il genocidio e per la libertà della Palestina. E poi, prendendo spunto anche da un altro testo di un compagno che si trova in semi libertà o in semi prigionia, come dice lui, e così ha scritto una dichiarazione relativa a una azione di sciopero che si terrà domani 30 maggio, uno sciopero indetto da alcuni sindacati di base in Trentino, nella provincia di Trento, e al quale appunto questo compagno parteciperà a modo suo, poi vedremo. Ma questi due testi sono molto diversi, ma anche hanno qualcosa così di qualcosa che colpisce, che per come li ho letti io li accomuna, e cioè una sorta di così capacità di toccare, diciamo, il cuore delle cose. E leggendo questi due testi è tornata alla mente, sono andata a riguardarmi una lettura abbastanza vecchia, antica, e cioè il testo di Walter Benjamin Per la critica della violenza. E un testo che Walter Benjamin aveva scritto che è stato pubblicato nel 1921, dove appunto Benjamin parla della violenza intrinseca del diritto, e dove parla anche della possibilità di un'altra violenza che appunto sovverte, più che sovverte, interrompe il continuum della violenza del diritto, della violenza dello Stato. E lui in questo testo, insomma, parla anche, cioè si esprime in questi termini. A me era tornato in mente proprio la sua frase, cioè quando lui, insomma, parla della possibilità di disobbedire, anzi di agire in deroga al quinto comandamento, non uccidere, no? Insomma, Benjamin parla anche in modo messianico, no? Delle questioni politiche. E appunto, quando lui parla di questo agire in deroga al quinto comandamento, e cioè non uccidere, dice: non uccidere, questo comandamento precede l'azione, ma se è vero che non deve essere la paura della punizione ad indurre a seguire quel comandamento rispetto all'azione compiuta, esso rimane inapplicabile e incommensurabile. A partire da esso non segue alcun giudizio sull'azione, quindi non sono nel giusto coloro che fondano su quel comandamento la condanna di ogni violenta uccisione dell'uomo da parte dell'uomo. Esso non è un criterio del giudizio, ma un principio orientativo per l'azione della persona o della comunità agenti, che devono confrontarsi con esso in solitudine, assumendosi in casi tremendi la responsabilità di prescindere da esso. In un caso estremo esemplificato dall'uccisione rivoluzionaria, degli oppressori suona così: non uccidendo non instaurerò mai il regno della giustizia. Falsa ed ignobile è la tesi secondo cui l'esistenza starebbe al di sopra dell'esistenza giusta, se per esistenza non si deve intendere altro che la nuda vita. Ed è questo il senso che essa ha nella riflessione appena citata, ma essa racchiude in sé una potente verità, qualora l'esistenza, o meglio la vita, parole la cui ambiguità, esattamente come succede per la parola pace, va risolta a partire dalla loro relazione a ciascuna delle due sfere, venga a significare lo stato inamovibile dell'essere umano. Ogni violenza conservatrice di diritto, a lungo andare, indebolisce indirettamente, attraverso la repressione delle controviolenze ostili, anche la violenza creatrice di diritto, che è rappresentata in essa. Sull'interruzione di questo ciclo magico delle forme mitiche del diritto, sulla destituzione del diritto e delle violenze su cui esso si fonda, analogamente a come queste si fondano su di esso e in definitiva sulla destituzione della violenza statale, si basa una nuova epoca storica. Se oggi il dominio del mito è già qua e là scosso, quel nuovo non sta ad una distanza così incredibile da rendere vana una parola contro il diritto. Se però alla violenza, anche al di là del diritto, è assicurata la propria esistenza in quanto pura violenza immediata, risulta dimostrato che e come sia possibile anche la violenza rivoluzionaria, che è il nome che designa la più alta manifestazione di pura violenza da parte dell'uomo. Deplorevole è però ogni violenza mitica che pone il diritto e che può essere chiamata violenza che dispone. Deplorevole è pure la violenza che conserva il diritto e la violenza amministrata che la serve. Sì, e da Walter Benjamin torniamo allora a Elias Rodriguez e leggiamo le sue parole. 20 maggio 2025. Alintar è una parola che significa qualcosa come tuono o lampo. Dopo un atto, le persone cercano un testo che ne definisca il significato. Quindi ecco un tentativo. Le atrocità commesse dagli israeliani contro la Palestina sfidano ogni descrizione e ogni quantificazione. Invece di leggere le descrizioni, per lo più le osserviamo svolgersi in video, a volte in diretta. Dopo alcuni mesi di rapido aumento del numero delle vittime, Israele ha perso la capacità di continuare a contare i morti, il che ha giovato al suo genocidio. Al momento in cui scrivo, il Ministero della Salute di Gaza registra 53.000 morti per forza traumatica, almeno 10.000 giacciono sotto le macerie e chissà quante altre migliaia di morti per malattie prevenibili, fame, con decine di migliaia di persone ora a rischio di una carestia imminente a causa del blocco israeliano, il tutto favorito dalla complicità dei governi occidentali e arabi. L'ufficio informazioni di Gaza include le 10.000 persone sotto le macerie insieme ai morti nel proprio conteggio. Nei notiziari quei 10.000 sotto le macerie compaiono ormai da mesi, nonostante il continuo accumulo di macerie e i ripetuti bombardamenti, oltre al bombardamento di tende tra le macerie. Come il bilancio delle vittime in Yemen, congelato per anni a poche migliaia sotto i bombardamenti sauditi, britannici e statunitensi, prima che fosse tardivamente rivelato che era in realtà di 500.000 morti, tutte queste cifre sono quasi certamente una sottostima criminale. Non ho difficoltà a credere alle stime che fissano il bilancio a 100.000 o più. Da marzo di quest'anno sono state assassinate più persone che in margine protettivo e piombo fuso messi insieme. Che altro si può dire a questo punto della proporzione di esseri umani mutilati, ustionati ed esplosi che erano bambini? Noi che abbiamo permesso che ciò accadesse non meriteremo mai il perdono dei palestinesi. Ce lo hanno fatto ben sapere. Un'azione armata non è necessariamente un'azione militare. Aaron Bushnell e altri si sono sacrificati nella speranza di fermare il massacro e lo Stato si impegna a farci credere che il loro sacrificio sia stato vano, che non c'è speranza di un'escalation per Gaza e che non ha senso riportare la guerra a casa. Non possiamo permettergli di avere successo, i loro sacrifici non sono stati vani. L'impunità che i rappresentanti del nostro governo provano nel favorire questo massacro dovrebbe quindi essere smascherata come un'illusione. L'impunità che vediamo è la peggiore per chi di noi si trova nelle immediate vicinanze dei responsabili del genocidio. Un chirurgo che ha curato le vittime del genocidio Maya, perpetrato dallo Stato guatemalteco, racconta di un episodio in cui stava operando un paziente gravemente ferito durante un massacro, quando all'improvviso uomini armati sono entrati nella stanza e hanno sparato al paziente sul tavolo operatorio, uccidendolo a colpi d'arma da fuoco, ridendo mentre lo uccidevano. Il medico ha affermato che la cosa peggiore è stata vedere gli assassini, a lui ben noti, pavoneggiarsi apertamente per le strade locali negli anni successivi. Altrove, un uomo di coscienza tentò una volta di gettare in mare Robert McNamara da un traghetto diretto a Martha's Vineyard, indignato per la stessa impunità e arroganza che aveva visto in quel macellaio del Vietnam, mentre sedeva nella sala d'attesa del traghetto a ridere con gli amici. L'uomo, questo uomo di coscienza, contestò la postura stessa di McNamara, che ti diceva: la mia storia è a posto e posso anche starmene accasciato su un bancone come questo con il mio caro amico Ralph qui presente e tu dovrai buttarlo giù. L'uomo non riuscì a buttare McNamara in acqua da una passerella. L'ex segretario di Stato riuscì ad aggrapparsi alla ringhiera e a rimettersi in piedi, ma l'aggressore spiegò il valore del tentativo dicendo: beh, l'ho portato fuori solo noi due e improvvisamente la sua storia non era più così a posto, vero? Una parola sulla moralità delle manifestazioni armate. Chi di noi è contrario al genocidio si compiace di sostenere che autori e complici abbiano perso la loro umanità. Condivido questo punto di vista e ne comprendo il valore nel lenire la psiche che non sopporta di accettare le atrocità a cui assiste, nemmeno mediate attraverso lo schermo. Ma la disumanità si è da tempo dimostrata scandalosamente comune, banale, prosaicamente umana. Un autore può quindi essere un genitore amorevole, un figlio devoto, un amico generoso e caritatevole, un amabile sconosciuto, capace di forza morale quando gli conviene e a volte anche quando non gli conviene, e tuttavia essere un mostro. L'umanità non esime nessuno dalla responsabilità. Un'azione del genere, l'azione che lo stesso Rodriguez ha compiuto, sarebbe stata moralmente giustificata se intrapresa 11 anni fa, durante Margine Protettivo, più o meno nel periodo in cui sono diventato personalmente consapevole della nostra brutale condotta in Palestina. Ma penso che per la maggior parte degli americani un'azione del genere sarebbe stata illeggibile, sarebbe sembrata folle. Sono contento che almeno oggi ci siano molti americani per i quali questa azione sarà estremamente comprensibile e, in un certo senso, l'unica cosa sensata da fare. Vi amo, papà, mamma, sorellina, il resto della mia famiglia, incluso te, o Palestina Libera, Elias Rodriguez. Ancora Benjamin. La violenza mitica, in quanto verità della violenza giuridica, è cruenta sulla nuda vita per se stessa. È quella Gewalt, in tedesco appunto quella violenza, che rinchiude la vita in un CPR, oppure bombarda, lascia morire in mare, lascia morire, cioè fa morire per fame, per malattia, eccetera. E quindi allora Benjamin ci dice, bisogna porsi il problema di porre fine, di come porre fine al ciclo della violenza mitica, e bisogna interrompere questa violenza mitica, e proprio questa è la questione rivoluzionaria. E che cosa significa interrompere il continuum violento del diritto? Significa spezzare il rapporto tra mezzi e fini. Non sono i fini che, se realizzati, dovranno giustificare i mezzi impiegati, ma sono i mezzi a dover contenere in sé un intrinseco criterio della propria giustezza. Inoltre, la comprensione di eventi che interrompono il continuum storico richiede il preliminare rovesciamento del punto di vista dello storicismo. E cioè, se si dovesse guardare a ciò che può accadere, che ci può accadere domani, non ci sarebbe mai nessuna rivolta. Ritornando allo scritto di Elias Rodriguez, volevo dire due cose, perché questa persona, questo compagno, fa dei riferimenti molto precisi. fa dei riferimenti all'operazione Margine Protettivo e Piombo Fuso, due operazioni militari sempre condotte da dello Stato di Israele contro la Striscia di Gaza, specificamente l'operazione Piombo Fuso si è svolta dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009. Questa operazione è stata mandata avanti dallo Stato di Israele come rappresaglia in seguito al lancio di missili Qassam su Israele, e missili che avevano colpito alcune, insomma, che minacciavano alcune zone come Sderot, il deserto del Negev e Ashkelon. E in questa operazione Piombo Fuso ci furono 1400 morti palestinesi. E poi fa riferimento anche all'operazione Margine Protettivo, che è un'operazione militare che è durata 51 giorni, condotta dallo Stato di Israele sempre contro la Striscia di Gaza nel 2014, e iniziata nell'8 luglio 2014. E in questa operazione morirono 2200 palestinesi morti a causa delle incursioni via terra e a causa dei bombardamenti. Praticamente questa operazione Margine Protettivo era la terza guerra in 6 anni nella Striscia di Gaza. Ricordiamo che la Striscia di Gaza dal 2007, praticamente Israele si è formalmente ritirato dalla Striscia di Gaza dal 2007, quando il controllo del territorio, politico del territorio, è stato preso da Hamas. E ricordiamo che nella Striscia di Gaza sono stati, da quella volta, dal 2007, rinchiusi circa 2 milioni di abitanti in 362 chilometri quadrati, e in una condizione di prigione, si diceva anche subito dopo il 7 ottobre, una condizione di prigione a cielo aperto, ma neanche tanto aperto, nemmeno il cielo, perché comunque c'era questo scudo, diciamo, di controllo e di militare che copriva, che comprendeva anche la parte, insomma, aerea sopra Gaza da parte appunto dello Stato di Israele. E quindi fa riferimento Rodriguez a queste due operazioni militari specifiche che riguardano appunto l'istanza genocidaria permanente dello Stato di Israele contro i palestinesi. E poi fa altri due riferimenti. Fa riferimento al genocidio Maya perpetrato dallo Stato guatemalteco. Anche qui è un riferimento preciso, perché anche in questo caso qui praticamente si tratta, il riferimento è a questa guerra civile che è andata avanti molto a lungo dal 1960 al 1996, e in cui c'è stato questo scontro tra le classi agiate urbane, che erano discendenti dei colonizzatori spagnoli, e invece le classi popolari, i campesinos, i contadini, discendenti dei Maya. Negli anni '80 praticamente l'esercito così pilotato, diciamo, dalla dittatura, fa partire questo vero e proprio genocidio, in cui praticamente vengono sterminati sterminati in maniera indiscriminata e totale la maggior parte, insomma, di questi campesinos e discendenti dei Maya. E quindi appunto lui fa questo riferimento specifico al chirurgo, no? Che mentre sta operando assiste a questa violenza pazzesca da parte dei militari. E ultimo riferimento, questo tentativo da parte di questo uomo di coscienza di gettare in mare Robert McNamara in un traghetto appunto negli Stati Uniti. Ecco, chi era Robert McNamara? Era un dirigente d'azienda, un banchiere, ed è stato anche un politico statunitense. È stato segretario alla difesa USA dal 1961, dal 1961, praticamente dal 61 al 68 c'è stata la guerra nel Vietnam, lui era praticamente in piena guerra del Vietnam, era segretario alla difesa ed era un rigido assertore dei bombardamenti aerei sul Vietnam del Nord, quindi per questo Rodriguez dice il macellaio del Vietnam, perché non era aveva anche insomma ha portato avanti nel corso in occasione della guerra del Vietnam questa politica di massacro indiscriminato e quindi di genocidio della popolazione vietnamita. Ecco sì, queste puntualizzazioni, beh, un po' perché comunque è interessante, cioè, sapere anche in dettaglio i riferimenti, no? Ma anche per dire come questa persona, cioè come questa persona abbia agito secondo delle idee, cioè con un suo quadro, insomma, etico-morale preciso, no? E politico preciso. E a questo proposito è uscito un articolo, solamente, io almeno ho visto solamente sull'Indipendente, dove viene un po'. Si fa questo riferimento, cioè la giornalista che si chiama Enrica Perucchietti dice che questo duplice, diciamo, questo attacco all'ambasciata, a questi due funzionari dell'ambasciata che non sono dei civili, i funzionari delle ambasciate sono funzionari governativi, non sono dei civili, e se uno Stato è in guerra e uno Stato fa quello che fa e la gente continua a lavorare per quelle ambasciate lì, non sono dei civili, sono dei funzionari dello Stato, ribadisco. E questa giornalista dell'Indipendente dice che questo fatto, diciamo, questa azione armata è stata presa come paradigmatica di questo antisemitismo dilagante, confondendo appunto intenzionalmente i termini e i contenuti di antisemitismo e antisionismo, ma anche facendo passare questa persona per un mitomane. Cosa che invece o come un depravato appunto antisemita, cosa che invece non viene assolutamente nominato. Gli ebrei non vengono nominati in quanto ebrei, viene nominato lo Stato di Israele, insomma, e non solo lo Stato di Israele, anche le feratezze compiute dai complici degli altri stati complici occidentali e non. Sì, niente. Questo intanto. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi ci spostiamo. Spostiamo un po' il focus. We'll be right back. Un saluto a tutte e a tutti voi e andiamo a leggere uno scritto, un testo del compagno Passamani dal carcere di Trento, 14 maggio. Preferisco di no. Benché nella mia esistenza non abbia trascorso che una manciata di anni recluso, si tratta comunque di molto più tempo di quello che ho passato lavorando come salariato. Di conseguenza, tra i metodi di lotta che ho praticato, non rientrava fino a oggi lo sciopero, se non nella forma indiretta dell'appoggio solidale. I casi della vita e della repressione fanno sì che in questo momento io sia contemporaneamente un lavoratore dipendente e un detenuto in semilibertà o semiprigionia. Mi trovo quindi nella situazione un po' paradossale di poter scioperare scegliendo di non uscire dal carcere per farlo. Lo sciopero generale Fermiamo il genocidio, indetto a livello provinciale dai sindacati di base CUB Trento e SBM per venerdì 30 maggio, me ne dà l'occasione. L'orrore di Gaza, la cui violenza genocida sta oggi assumendo i caratteri della vera e propria soluzione finale, è un pungolo fisso che sento nel costato e nello spirito. Da quando sono qui non ho smesso di chiedermi cosa posso fare che abbia un minimo di senso. Non perché mi illuda di poter mettere chissà quale peso sulla bilancia della storia, ma perché non posso accettare che la normalizzazione del massacro guadagni terreno nella mia coscienza. Rinunciare a qualche ora di libertà, standomene in carcere con indosso una maglietta sulla resistenza palestinese e una kefia, mi accomunerà, se non altro, a quei milioni di persone nel mondo che non sanno esattamente cosa fare, ma che non possono far finta di niente. Il prigioniero palestinese Hanan Yaesh ha scritto nella sua potente e commovente dichiarazione di sentirsi un privilegiato rispetto al suo popolo stretto tra le bombe, la fame e la violenza assassina dei coloni. Se è un privilegio per un palestinese la prigionia nella sezione di alta sorveglianza di Terni, la mia condizione è allora un doppio privilegio. Se sono convinto che senza azioni diffuse e risolute non si può spezzare l'infame complicità dello Stato e del capitalismo italiani, delle loro fabbriche di armi, delle loro banche, dei loro porti, della loro logistica, dei loro centri di ricerca, delle loro università, con il regime sionista, l'infame complicità col regime sionista, mi piace la proposta di uno sciopero economico, sociale e umano, perché la non collaborazione individuale e collettiva è parte necessaria di un movimento internazionalista di solidarietà. L'anarchico francese Albert Libertad lo chiamava più di un secolo fa sciopero dei gesti inutili. Se generalizzato, lo sciopero delle attività antiecologiche e antisociali, tutti i lavori sono antiecologici e antisociali, su cui si fondano e con cui si riproducono lo Stato e il capitale, potrebbero sfidare il più oppressivo dei regimi. Il punto è che nella storia la non collaborazione non è mai riuscita a sottrarre così tanta legna da spegnere il fuoco del potere, di cui la necessità di altre pratiche di resistenza e di lotta. A ogni modo, l'espressione preferisco di no è il lievito di una rivolta morale sempre possibile anche quando si è all'angolo. nel ringraziare chi ha proclamato lo sciopero e nello stringere idealmente la mano a tutti quelli che il 30 maggio cercheranno di essere sabbia e non olio negli ingranaggi automatizzati del genocidio, posso solo dire che la mia libertà oggi vale ben poco senza la liberazione del popolo palestinese, la cui indomita resistenza perfora i muri, persino quelli delle carceri. Servono le sbarre a ricordarmi la sua prigionia. Sì, servano le sbarre a ricordarmi la sua prigionia. Possano queste mie povere parole servire come monito a non cedere al comfort della rassegnazione, come occasione anche perché possiamo intanto che abbiamo cuore, come appunto riportata la citazione di Maria Grazia Calandrone, a dire che non siamo che occasioni, contenitori provvisori di qualcosa che comunque esisteva, esiste ed esisterà prima, durante e dopo di noi, che possiamo, ma possiamo intanto che abbiamo cuore. L'ho letta non tanto bene, ma comunque penso che il senso si sia capito. E così si conclude questo testo che è arrivato dal carcere di Trento. Presento anche la band che stiamo ascoltando, loro sono gli Emma Goldman, band canadese, proprio nome e cognome come la nota anarchica nata a fine 800 e che casualmente è proprio anche morta nel 1940 in Canada, chi lo sa il motivo, presumo in onore appunto di Emma Goldman, il nome di questa band. Comunque questo è l'album uscito proprio che si chiama All You Are Is We, proprio nel 2025. Sì, e appunto Massimo Passamani ci, con questa sua così dichiarazione di adesione allo sciopero per domani 30 maggio, appunto ci invita, diciamo, a non accettare la normalizzazione del massacro, cioè non accettare che la normalizzazione del massacro guadagni terreno nella nostra coscienza. Come dicevo all'inizio di Zardins, questo sciopero si configura come un vero e proprio sciopero nella provincia di Trento, dove appunto c'è anche una copertura per l'estensione del lavoro, perché CUB Trento e SBM garantiscono questa copertura, insomma. Non si tratta solo di uno sciopero economico, sì, che vuole incidere sull'economia, anche se è chiaro che questo è importante, ma viene proposto anche come una stensione, appunto uno sciopero economico, sociale, ma anche sociale e umano, quindi un po' una stensione da tutto, dall'insieme dei gesti, insomma, che riproducono la normalità sociale, no? Come fare la spesa, andare via con i mezzi di trasporto, andare al bar, in banca, eccetera, alla posta, collegarsi a internet, insomma, un po' un momento, diciamo, che spezza appunto così il tran tran quotidiano, di cui non ci si rende conto magari, cioè che si vive così nella semi inconsapevolezza, per concentrarsi invece, per appunto concentrare la propria coscienza, i pensieri, i gesti unicamente su quello che sta succedendo in Palestina. E appunto Massimo Passamani, tra l'altro, in uno scritto di un casino di anni fa, scriveva anche questa cosa qua, cioè lui diceva: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo vivendo insieme. Ma si può, diciamo, uscire da questa roba, da questa dal vivere, insomma, questo inferno, si può cercare almeno si può cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Insomma, questa proposta un po' di rompere la normalità, rompere la quotidianità, e quindi non lasciare appunto che la normalizzazione del massacro conquisti le coscienze, è un po', io la vedo un po' in questa ottica qua. Yeah. Bene, questi che abbiamo ascoltato erano i canadesi Emma Goldman, dal loro album uscito proprio quest'anno, a inizio 2025. Ora invece andiamo all'ascolto di una band torinese che si è formata negli anni 90 e pare che tuttora esistano, forse si sono riformati, non saprei dirvi. Comunque hanno fatto un album 3 anni fa, comunque loro sono i Frammenti, e da un loro 10 pollici uscito nel 97 che si chiama L'Appeso ci ascoltiamo appunto questi Frammenti. Sì, cioè, scusate, mi inserisco così inaspettatamente per solo aggiungere questa piccola cosa, altrimenti ci allontaniamo dal discorso dello sciopero. Era una mia reminiscenza della quale volevo rendervi partecipi leggendovi un branetto così ancora per la critica della violenza di Walter Benjamin. E non è stato detto in precedenza che la traduzione condotta sul testo tedesco di Benjamin non è quella classica di oltre 60 anni fa di Solmi, ma è una traduzione curata una decina, quindicina di anni fa dal ricercatore Massimiliano Tomba. Allora, c'è una sfera dell'accordo umano a tal punto non violenta da essere completamente inaccessibile alla violenza, la vera e propria sfera della comunicazione, la lingua. Solo successivamente, in un autentico processo di decadenza, la violenza giuridica ha invaso questa sfera, rendendo punibile l'inganno. Laddove l'ordinamento giuridico, nella sua origine, confidando sulla sua violenza vittoriosa, si limita a colpire la violenza illegale appena essa si mostra, mentre l'inganno, non avendo in se stesso nulla di violento, era considerato, secondo il principio del diritto romano, ius civile vigilantibus scriptum est, o dell'antico diritto germanico, occhio a cosa compri, non punibile. Il diritto più tardo, persa la fiducia nella sua propria violenza, non si sentì più all'altezza di fronteggiare le violenze esterne, come invece era in grado di fare il precedente diritto. Il timore di quella violenza e la sfiducia in se stesso sono indicativi della sua crisi. Così inizia a porsi fini nell'intento di evitare, stiamo parlando del sì, del diritto, dell'ordinamento giuridico, scusate che bisogna salire di 20 righe per capire il soggetto. E l'ordinamento giuridico inizia a porsi fini nell'intento di evitare più forti manifestazioni della violenza che conserva il diritto. Si rivolge quindi contro l'inganno, non per considerazioni di tipo morale, ma per il timore delle azioni violente che potrebbe suscitare nell'ingannato. Questa tendenza del diritto ha anche contribuito alla concessione del diritto di sciopero, che è in contraddizione con gli interessi dello Stato. Il diritto lo permette perché impedisce quelle azioni violente alle quali esso teme di doversi contrapporre. Prima di tale concessione, infatti, gli operai passavano subito al sabotaggio e incendiavano le fabbriche. Per indurre gli uomini ad accomodare pacificamente i loro interessi al di qua di ogni ordinamento giuridico, c'è infine, a prescindere da ogni virtù, un'efficace motivazione che suggerisce abbastanza spesso, anche a chi è più recalcitrante, di adottare quei mezzi puri al posto di quelli violenti, nel timore degli inconvenienti comuni che, indipendentemente dall'esito, deriverebbero da un confronto violento. Per quanto riguarda le lotte di classe, in certe condizioni lo sciopero deve essere considerato in esse come un puro mezzo. Vanno ora esaminati più attentamente due tipi di sciopero sostanzialmente diversi, la cui possibilità è già stata presa in considerazione. E così continua, e vi invito ad andarvelo a leggere. Sì, niente, era un concetto, non era un concetto, era un risultato, insomma, della ricerca svolta in questo saggio breve ma denso, che era per la critica della violenza, un testo appunto di Walter Benjamin scritto nei primi anni 20. continuando sempre con Walter Benjamin e arrivando un po', cioè un po' arrivando, ne abbiamo parlato un po' tutta la serata, ma insomma continuando sul discorso dello Stato, non solo del diritto ma anche dello Stato, appunto Benjamin ci dice che la modernità nasce nella sanguinaria repressione delle insorgenze ugualitarie che mandarono in frantumi gli ordini fondati sulle differenze di ceto. Allora ci dice: la modernità neutralizza quell'originario spirito di uguaglianza trasformandolo nell'eguaglianza dei soggetti di diritto, cioè queste istanze di uguaglianza vengono accolte per essere neutralizzate nello Stato moderno, un po' come si diceva prima. Dalla lettura si evinceva, anzi dalla lettura, lo sciopero, il diritto di sciopero, cioè lo sciopero non conviene, diciamo, allo Stato, cioè lo Stato va contro gli interessi dello Stato, ma lo Stato permette il diritto di sciopero per evitare che ci siano, appunto, il più possibile, per evitare il più possibile che ci possano essere degli scioperi selvaggi, appunto, radicali, e quindi che mettono in discussione l'esistenza stessa dello Stato, no? E appunto un po' con parole diciamo letterali di Benjamin, un po' facendo la parafrasi delle sue parole, ci dice: lo Stato moderno neutralizza la domanda sul giusto attraverso il meccanismo rappresentativo. C'è una autorappresentazione dell'individuo libero ed uguale che diventa soggetto di diritto in quanto è titolare di diritti, però questi diritti vengono concessi e garantiti dallo Stato. L'homo democraticus è libero solo in quanto cittadino, però se insiste nella sua volontà individuale può anche essere obbligato a essere libero, cioè obbligato a essere libero secondo, appunto, il diritto stesso e lo Stato stesso. Appunto, l'homo democraticus viene a trovarsi nudo di fronte al potere rappresentato da chi agisce nel nome del popolo. È ingenuo credere di proteggere la libertà individuale attraverso i diritti fondamentali in grado di porre limiti al potere dello Stato, in quanto i limiti che lo Stato si pone possono sempre essere spostati o annullati dallo Stato stesso. C'è sempre uno stato d'eccezione, ci possono sempre essere ragioni di sicurezza. E poi c'è, questo però è il curatore dell'edizione per la critica della violenza, che fa un po' una comparazione sulle dichiarazioni dei diritti umani, no? Dice: da quella francese del 1789 a quella del 98 della Convenzione Europea, tutte queste dichiarazioni dei diritti umani contengono sempre l'inevitabile nota a margine per la quale ogni diritto trova come proprio corollario la restrizione prevista dalla legge per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine, per la prevenzione dei reati. Siamo adesso in pieno decreto sicurezza, quindi insomma queste cose risuonano in maniera forte. Il potere, in quanto è democratico, garantisce il diritto solo in quanto può anche sospenderlo. E quindi praticamente insomma, addirittura ci dice Walter Benjamin che la democrazia, che è proprio la democrazia quella che rende possibile la massima degenerazione pensabile della Gewalt, cioè della violenza, e la violenza poliziesca, che è una delle espressioni, insomma, della Gewalt dello Stato democratico, non corrompe il principio democratico, ma ne esprime piuttosto la più intima essenza. E veniamo appunto a questo discorso della polizia. Nella prassi poliziesca, la distinzione tra violenza che pone e violenza che conserva, questi due aspetti, no, della violenza intrinseca nel diritto, è abolita. Cioè la prassi poliziesca esprime la sempre possibile combinazione delle due forme di violenza. Eccezione e regola si intrecciano in un indistricabile nesso poliziesco. Nelle istituzioni come i carceri, le carceri di tutti, amministrative o penali che siano, questa cosa è proprio emerge all'ennesima potenza. La violenza rispetto alla violenza poliziesca, la sua presenza è spettrale, inafferrabile, diffusa per ogni dove, perché non conosce distinzione tra sfera pubblica e privata, in quanto legittimata dalla sovranità popolare nel nome della quale essa agisce. Se la polizia agisce legalmente, i suoi fini sono legittimati dalla sua prassi. Se agisce illegalmente, la sua Gewalt, la sua violenza, e i suoi mezzi illegali sono legittimati dai fini. Per questo, ci dice Walter Benjamin, la critica dei pacifisti non solo verso gli abusi della violenza bellica e poliziesca, ma anche nei confronti del servizio militare come tale, è del tutto inefficace se non coincide con la critica di ogni potere giuridico, con la critica di ogni potere giuridico e con la con la critica del potere legale o esecutivo. Sì, mi pare che queste, insomma, potrebbero essere le parole, diciamo, abbastanza conclusive un po' del discorso, insomma. La necessità di andare fino in fondo, cioè di non fermarsi, rispetto alla questione di Gaza e del genocidio, assolutamente di non limitarsi a un approccio, diciamo, umanitario. Umanitario, perché l'approccio è, se è necessario, che sia più radicale, appunto, cioè è auspicabile che sia più radicale anche da parte di chi non è magari anarchico, insomma, o comunque così contro lo Stato. Questo, e poi la necessità di non, appunto, di non di mantenere viva l'attenzione, la sensibilità su quello che sta succedendo, di non lasciarsi travolgere dalle vite normali, diciamo, dalla normalità che ci fanno passare così tutti i giorni. E niente, io chiuderei qui, non so se ci sono altre cose da aggiungere. Mi pare che per oggi abbiamo cercato, insomma, ad approfondire parecchie questioni, e torniamo a dire il nome del libro di questa edizione, Per la critica della violenza, Walter Benjamin, col testo tedesco a fronte, è a cura di Massimiliano Tomba, è un'edizione Alegre di un bel po' di anni fa, nel 2010, 15 anni fa. Ecco, una roba, concludo con questa cosa qua, che mi ha colpita, perché sono andata a cercarmi un po', insomma, magari molti sanno che Walter Benjamin praticamente nel 40 si suicida, in quanto lui arriva da Marsiglia con un visto d'emergenza per gli Stati Uniti e un documento di transito che gli avrebbe consentito di raggiungere Lisbona. Arriva a Portbou, ma non ha il documento di uscita dalla Francia, che il governo di Vichy, collaborazionista, negava ai cittadini tedeschi, quindi viene fermato a Portbou dalle guardie di frontiera spagnole. E in quel momento lì, chiaramente, lì l'Europa è in mano a Hitler, no? E allora, di fronte alla prospettiva di essere estradato, Walter Benjamin si ammazza tra il 25 e il 26 settembre del 1940 e viene seppellito nel piccolo cimitero di Portbou. Un anno dopo, circa, Hannah Arendt cerca invano la tomba di Walter Benjamin, ma e la cerca invano, perché i resti di Walter Benjamin sono stati inumati sotto falso nome nel settore cattolico, lui era ebreo, nel cimitero, e poi vengono traslati in una fossa comune. Quindi lui ha questa, cioè lui tra l'altro, anche nello scritto, questa roba della, insomma, anche la violenza su di sé, no? La proclama anche l'importanza della violenza esercitata su di sé. Ma andando a cercare appunto rispetto a questa vicenda, esiste un monumento, beh, tra l'altro molto suggestivo, appunto, che si affaccia sul mare, no? Un monumento a Walter Benjamin, che è stato fatto negli anni 90 e, da un scultore israeliano. Però poi, per concludere col discorso, insomma, di come ci massacrano, cioè che i morti non smettono mai di morire se noi non portiamo avanti le lotte di chi ci ha preceduto e non riviviamo e teniamo vive tutte le generazioni che hanno lottato, sì, contro l'oppressione, contro la violenza degli stati e del diritto. E non solo, questi morti continuano a morire. E per dire, mi ha colpito che lo stesso scultore israeliano che ha fatto questo monumento a Walter Benjamin è lo stesso che ha fatto anche un monumento alla Brigata Negev dei caduti da parte israeliana durante la guerra del 1948. Quindi una roba proprio il trionfo, diciamo, c'è cioè un monumento che vuole. Che vuole, sì, questo era un clacson esterno, non so se l'avete sentito, comunque un monumento che vuole magnificare, diciamo, lo stato sionista. Quindi con questa così contraddizione di cui anche che ha colpito anche in morte Walter Benjamin, concludiamo Zardins per questa sera. Alla prossima, ciao ciao. Bene, siamo proprio tiratissimi, anzi abbiamo anche sforato. Ricordo che stiamo ascoltando in sottofondo i Razed Fist, band svedese, da questo loro album del 2002. Bene, ricordo che questo è Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, anche oggi giovedì 29 maggio. Quindi dalle ore 20 alle ore 21:30 l'appuntamento è per il prossimo giovedì e ciao a tutti.